Il mondo del rap è veramente un mondo strano. Tutti fanno i duri, nessuno dà una mano. Alle volte non capisco che determina il successo, forse il fatto di accettare un compromesso. La musica buona ormai da anni non esiste, chi canta vuole solo apparire nelle riviste. Soldi, fama e gente vuota intorno, tutto questo del successo è solo il contorno. Accetta le critiche senza lamentarti, chi ti contesta finirà con l'accettarti. Mantieni uno stile, non ti uniformare, inventa qualcosa che sia originale. Vorrei il cash di Marra, ma senza spacciare, fare il grano e mandare tutti quanti a cagare. Vorrei il mondo, se non è marcio si intende, non voglio un accento da americano perdente. Vorrei avere prestigio, ma con quello ci nasci, forse è troppo tardi, meglio che lasci. Vorrei un gemello, magari diverso, anche se sfondo io successo, mi faccio il verso. Vorrei una supercar e inneggiare a Federica, magari un'idea che mi sconvolge la vita. Non sarebbe male nemmeno fare un 6, è solo un assaggio di quello che vorrei. Non tutti sono disposti ad apprezzarti, qualcuno si batterà, tutti fermarti, ci saranno gli amici ad incoraggiarti, ci saranno anche i falsi che vorranno fregarti, ma tu non badarci, continua a sperarci, stronzi nei incontri, che puoi farci se vedi il traguardo? Puoi arrivarci, tieni squadra solo i buoni e scarta quelli marci. Qualunque ostacolo, prendila a calci e prova ancora, continua a provarci. Al fallimento non devi pensarci, è solo pensiero che può fermarti. Vorrei il cash di Marra, ma senza spacciare, fare il grano e mandare tutti quanti a cagare. Vorrei il mondo, se non è marcio si intende, non voglio un accento da americano perdente. Vorrei avere prestigio, ma con quello ci nasci, forse è troppo tardi, meglio che lasci. Vorrei un gemello, magari diverso, anche se sfondo io successo, mi faccio il verso. Vorrei una supercar e inneggiare a Federica, magari un'idea che mi sconvolge la vita. Non sarebbe male nemmeno fare un 6, è solo un assaggio di quello che vorrei. La sola strada, saper comunicare senza essere banale, così potrai sfondare. Accendo la TV e mi sintonizzo sul canale, se il messaggio è autentico saprà arrivare, se invece è finto, è costruito, qualcuno mi mostrerà il terzo dito, mi darà del fallito, che non sono riuscito ad entrare nel mito, ma non mi hanno capito, io resto allibito, quasi basito, dopo aver sentito dentro qualche sito che ha partorito un pezzo finito, ancora etichettato come già sentito. Vorrei il cash di Marra, ma senza spacciare, fare il grano e mandare tutti quanti a cagare. Vorrei il mondo, se non è marcio si intende, non voglio un accento da americano perdente. Vorrei avere prestigio, ma con quello ci nasci, forse è troppo tardi, meglio che lasci. Vorrei un gemello, magari diverso, anche se sfondo io successo, mi faccio il verso. Vorrei una supercar e inneggiare a Federica, magari un'idea che mi sconvolge la vita. Non sarebbe male nemmeno fare un 6, è solo un assaggio di quello che vorrei. Vorrei il cash di Marra,